Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, cari gastronauti vicini e lontani. Ebbene, oggi faremo un viaggio. Faremo un viaggio in una terra molto bella, ma anche molto ricca dal punto di vista gastronomico, non solo paesaggistico. Ebbene, è il Friuli. Il Friuli oggi prenderemo come punto di riferimento la zona di San Daniele e il Coglio. Perché? Perché poi scopriremo che, diciamo, la prossima settimana ci saranno grandi festeggiamenti. Abbiamo dimenticato e dimenticheremo purtroppo tante altre aree, come il Carso, dove anche lì c'è uno straordinario vino, straordinaria produzione di vino, però diciamo che in 45-50 minuti non si può scoprire tutto il Friuli. Ebbene, chi volesse intervenire comunque per segnalarci appunto di cibi, prodotti, vini, 800 24 0024, sms 349 238 6666. Ebbene, cominciamo questo viaggio dove ci sarà grande festa dal prossimo venerdì alla domenica. Si chiama appunto Aria di Festa. Andiamo a San Daniele. San Daniele a tutti cosa dice? Dice prosciutto. E quindi parliamo un secondo con il direttore del consorzio, Mario Cicchetti. Cicchetti, ma questa Aria di Festa, ogni anno ci sono migliaia di visitatori che vengono. Ma cosa c'ha questo prosciutto di San Daniele per attrarre tanta gente? C'ha probabilmente l'appeal di far vedere quello che è il suo territorio, non solo quello che è un prodotto. Probabilmente una festa come Aria di Festa fa una sintesi di comunicazione abbastanza immediata e piacevole di cosa vuol dire un prodotto tipico. Un prodotto che viene prodotto in una zona particolare che ha le caratteristiche di quella zona particolare. Il prosciutto di San Daniele è sicuramente un alimento che è buono e fa bene, ma fa star bene, e quindi Aria di Festa è sostanzialmente una concretizzazione di questo stare bene. Certo, ma ha grande successo soprattutto anche dai paesi confinanti vicini, perché arrivano in gran massa questa festa. Quanti prosciutti vengono tagliati, se si può sapere un numero, durante questa tanti, festa? Tanti, perché la festa dura 40 ore circa, dura il weekend con poi un appendice il lunedì sera, e si tagliano circa 4.000 prosciutti. San Daniele dà i suoi numeri in questa festa in una breve sintesi: siamo in 8.000 abitanti, si producono 2.700.000 prosciutti all'anno, ci sono 31 prosciuttifici, nei 4 giorni di Aria di Festa arrivano quasi 200.000 persone nelle 4 giornate, quindi dà un po' il senso. È anche un momento di incontro di persone, perché effettivamente è una festa che ha caratteristiche anche internazionali, perché soprattutto il sabato e la domenica accogliamo diversi visitatori che vengono dalla Baviera, che rispetto alla nostra zona vicina sono circa 350 km dall'Austria, sicuramente che confinante, e già da 4-5 anni che troviamo anche visitatori che vengono dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Croazia, dalla Slovenia. Quindi ha sicuramente un respiro internazionale che dice anche quanto è importante il Made in Italy, quanto è importante la tipicità italiana e anche il turismo legato ai prodotti in questo momento. Ma non solo tanti prosciutti, ma anche tanto vino e tanto pane, immagino. Sì, perché è una celebrazione del nostro territorio, abbiamo detto. Quindi San Daniele per 4 giorni diventa una sintesi anche del Friuli. C'è questo abbinamento felice che c'è tra il prosciutto di San Daniele e i grandi bianchi della nostra regione. Li si può degustare in tutti gli stand, nei prosciuttifici aperti, che sono aperti da... Ecco, interessante questo, interessante. Cosa significa prosciuttifici aperti? Vuol dire che un consumatore può andare a vedere dentro come si produce e si sente raccontare appunto la filiera, la produzione? Sì, perché Aria di Festa anche questo aspetto, proprio quello di far conoscere semplicemente le persone quali sono i segreti del San Daniele. Ci sono ben 9 aziende aperte durante la 4 giorni, aperte per visite guidate. Lì dentro si possono fare degustazioni, si vede come si fa il prosciutto, si vede un attimino il processo di trasformazione, ma anche nel centro storico ci sono alcune aree dedicate nelle quali si può degustare il prosciutto, ma anche conoscerlo, come si taglia a mano, come si taglia a macchina, come si conserva, quali sono le sue caratteristiche, come riconoscerlo. Quindi è una giornata piacevole dove un po' si impara e molto ci si diverte. Ecco, guardi, sono arrivati già diversi sms. C'è il primo che mi chiede: meglio il taglio a macchina o a coltello? De gustibus, nel senso che questi prosciutti sono molto delicati, hanno una bassa sapidità e sono molto morbidi, quindi si esaltano sicuramente con un taglio a macchina. Però è molto piacevole effettivamente tagliare il coltello, anche perché sembra difficile, ma in realtà fatto una volta lo si fa fare tutta la vita, come andare in bicicletta, e quindi per fare una festa è molto divertente, se lo si può, ce lo si può permettere, si mette un prosciutto sulla mossa, lo si taglia con gli amici, dura molto poco, sembra che ci sia tanta cosa, ma poi un video. Bene, bene, grazie a Mario Cicchetti, ma si mangia anche ovviamente a San Daniele. Abbiamo con noi Primo Bortoluzzi, ristorante ai Bintars. Cosa vuol dire Bortoluzzi, cosa vuol dire Bintars? Bintars deriva da winter, che è inverno in tedesco. Ah. I Bintars erano dei nostri emigranti che andavano a lavorare d'estate in Austria e in Germania, tornavano in autunno per fare l'inverno a casa come tutti i nostri emigranti, e cercavano di passare negli anni, parliamo di 100 anni fa, che era, le case non erano calde, di passare tutto l'inverno in osteria, nel caldo, tranquilli. Sì, non erano degli ubriaconi, erano dei personaggi che lavoravano d'estate per fare d'inverno questa vita bellissima nel caldo delle osterie. Quindi c'era il rito dell'osteria, insomma. Sì, un tempo. Sì, c'è, Madonna, c'era il rito dell'osteria. La nostra ha più di 120 anni e poi di fronte a noi una volta c'era la stazione, questo punto di ritrovo di questi personaggi, di questi Bintars, e lì si fermavano, e ha preso il nome ancora 100 anni fa la nostra osteria, ai Bintars. Ed deriva da winter, però, da inverno, okay, perché ecco. venivano a svernare. Bortoluzzi, cosa si mangia da lei? Allora, da noi si mangia solo freddo. La prosciutteria nostra è nata nel, diciamo, 76, l'anno del terremoto. Anche prima si mangiava prosciutto a San Daniele, però la prosciutteria vera, io credo che la mia prosciutteria sia stata la prima al mondo, ma non perché l'abbiamo inventata noi, perché nel 76 è stato il terremoto, i ristoranti sono stati, e la gente doveva mangiare. Noi siamo in un posto centrale dove c'è l'ospedale, e abbiamo cominciato a fare pranzi e cene a base di prosciutto, montaggio, questi prodotti friulani classici, e da lì è partita la prosciutteria. E adesso siamo a un, ce n'è tantissime a San Daniele, per fortuna, ma anche in giro per il mondo ormai ce ne sono tante, sì, di prosciutteria. Sì, ma, però quando siamo partiti la gente diceva: ma i Bintar sono pazzi, pranzano a base di prosciutto, cenano a base di... Non era ancora nella mentalità, certo, nella non è l'abitudine. Non c'era nell'abitudine. Bene. Adesso veramente il prosciutto è un pranzo, è una cena, è un piatto meraviglioso. Bene. E da noi si mangia prosciutto, formaggi, sottoli, i dolci, bene, si mangia freddo comunque, non abbiamo niente di caldo. Bene, però mi dica, c'è una contraddizione che non consente, direbbe qualcuno, perché un tempo diceva che l'osteria riscaldava questi, diciamo, lavoratori che andavano all'estero e ma tornavano di inverno. Non ne abbiamo più, non ne abbiamo più. Vanno solo all'estero per vacanza, e quando tornano, sì, ancora i nostri qua, i veneti tutti, anche vengono da lontano, dalle mira, vanno in Austria perché l'Austria è bella. È qua a un'ora di macchina da San Daniele. Tornando dall'Austria, si ferma. L'Austria è bellissima. La tappa, una tappa fissa è San Daniele. È a un'ora di macchina, certo, e poi certo. Si entra in autostrada in un momento, è la tappa fissa, diciamo. Bene, grazie a Primo Bortoluzzi, quindi ai Bintars di San Daniele. Bene, abbiamo detto prima che la terra del Friuli è ricca di prodotti e anche di prosciutti. Ho premesso che oggi ci concentreremo su due aree particolari, ma per carità, il prosciutto di Sauris, il prosciutto affumicato di Cormons, che molti così radioascoltatori hanno già segnalato via SMS, sicuramente sono straordinari. Ho detto ci concentriamo, ma è ricca, ricchissima, come vedremo il Friuli. E poi a San Daniele ricordiamo anche la straordinaria trota di Pighin, dell'azienda Pighin, davvero sicuramente una delle cose più prelibate in questo settore, appunto, di pesce che ci siano in Italia. Ma torniamo un po' a parlare anche di San Daniele, della festa e di prosciutto. Prima vi ricordo numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Continuate a segnalarci appunto dei prodotti. Bene, io ho parlato di San Daniele come, diciamo, cibo, ma in realtà c'è anche anche una chicca culturale, perché chi va a fare degli itinerari appunto domenicali, non tutti vogliono solo mangiare, ma anche l'anima deve avere il suo momento particolare. E devo dire che a San Daniele, e l'ho visitata, c'è una straordinaria biblioteca, che è la Biblioteca Guarneriana. Buongiorno a Angelo Floramo, che è appunto il direttore. Buongiorno Floramo. Buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori. Senta, ecco, mi invogli i nostri radioascoltatori a venire, se vengono alla all'area di festa, per mangiare il prosciutto, a fare una visita alla sua biblioteca. La capatina sicuramente ci sta, perché è come entrare in un luogo in cui si recidano i secoli, si torna un po' indietro, le atmosfere sono veramente magiche, molto particolari, ci sono questi antichi scaffali di legno, c'è un antichissimo studiolo del 1736, si respira un profumo di carte antiche, di pergamene, per cui dalla festosità della piazza, in cui la Roma è sicuramente, come avete ben specificato, goloso, si passano ad altri appetiti culturali che sono estremamente interessanti, con manoscritti antichissimi tra l'altro, precedenti l'anno 1000, e quindi è veramente una gioia per il cuore, un'emozione che difficilmente viene dimenticata. Ecco, una chicca particolare magari di un volume, ci sono degli incunaboli anche se non erro? Sì, certo, ci sono diversi incunaboli, ci sono volumi manoscritti appunto che partono dall'anno 1000 e arrivano fino al pieno 500, poi testi rari, cinquecentine, seicentine. Cioè, il numero verde non risponde, è un radioascoltatore. Com'è? C'è un... Prego. Ah, ecco, sì. Quindi esiste appunto sicuramente un tesoro tutto da esplorare, che racconta, come diceva prima anche il dottor Cicchetti, per quanto concerne il prosciutto, racconta il territorio, in quanto erano testi che provenivano da buona parte dell'Europa, confluivano qui in Friuli, spesso venivano realizzati nelle officine scrittorie di Guarnerio d'Artegna, che fu un umanista del 1500. Bene, quindi sicuramente una visita, ma può essere diciamo accompagnata questa visita? Ci sono delle ore particolari, bisogna telefonare, ecco, questo è importante. Durante la festa del prosciutto, appunto, la biblioteca sarà aperta, bisogna prenotarsi presso la biblioteca moderna o nell'ufficio della Proloco e sarà possibile appunto immedesimarsi in queste atmosfere molto particolari. Dai cui documenti poi si parla anche del parsutto di San Daniele, di come i patriarchi ne fossero ghiotti e come venisse utilizzato in qualità di carta moneta in un certo senso. Ah, quindi era molto pregiato se veniva usato come carta moneta. Era considerato un dono per principi, e infatti i patriarchi di Aquileia preferivano farsi pagare le rette da San Daniele in parsutto, come si legge dai documenti d'archivio, piuttosto che da denaro sonante, perché lo potevano ovviamente consumare in maniera molto interessante con i pregevoli vini di cui si parla anche nell'archivio. Ecco, volevo chiederle un'ultima cosa importante. Lei ha detto appunto veniva usato come carta moneta. A quale periodo facciamo riferimento? Per quanto riguarda la biblioteca guarneriana, essa nasce nel 1466 come lascito testamentario, ma ovviamente è depositaria di una memoria che spazia dal 1200 nell'archivio fino ad arrivare ai giorni nostri, e quindi siamo nel cuore del Medioevo, del Rinascimento. Bene, nel cuore dell'Europa. La ringrazio, ma vedo che continuano ad arrivare segnalazioni di prodotti, e c'è un radioascoltatore che mi ricorda la pitina. Sì, sicuramente la pitina, però non è proprio a San Daniele, abbiamo detto che oggi prendevamo quell'area, ma è in un'altra area, c'è un prodotto anche molto interessante, prodotto in minima quantità, quindi sicuramente da assaggiare anche la pitina assieme a tutti gli altri salumi che abbiamo citato. Ecco, abbiamo con noi ora un produttore importante di San Daniele, Vladimir Dukcevic, che è anche presidente del consorzio. A Vladimir volevo chiedere questo: perché un consumatore fra tanti prosciutti italiani, anche dopo IGP, deve scegliere il San Daniele? Buongiorno Vladimir. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Deve scegliere il San Daniele perché per tantissimi motivi, perché ha una selezione rigidissima di materia prima, quindi tutti animali italiani alimentati in modo naturale, perché c'è solo un ingrediente che è un po' una punta di sale marino, perché oltre ad essere gustosissimo, ma questo è facile, è anche la proteina di carne più facilmente digeribile, perché larga parte del suo grasso si trasforma, e pochi sanno che poi in realtà va ad aumentare il colesterolo buono, quindi mangiare il prosciutto di San Daniele fa proprio bene alla salute, ma soprattutto perché è buono. Ecco, quindi sicuramente è una buona ragione. Quella del colesterolo io starei un po' attento, perché magari poi mi arrivano 4-5 sms di medici o di attenti a questo che dicono ma è discutibile. Vladimir, cioè, sostengo... Ma non è proprio così, perché è proprio su base scientifica che abbiamo scoperto questo. In realtà è quella parte, non è tutta ovviamente, quindi bisogna fare attenzione ad essere precisi. Però quella parte si trasforma in un grasso linoleico, quindi paragonabile al grasso dell'olio d'oliva. Anche l'olio d'oliva, se uno beve 2 litri al giorno, ovviamente non è il massimo, però come tutte le cose buone, in moderazione fanno bene. Ecco, quanto tempo ci vuole per mettere sul mercato il prosciutto di San Daniele secondo il disciplinare appunto della DOP? Beh, intanto bisogna allevare il maiale per 10 mesi, che è importante perché appunto è più del doppio di quello che si usa fare nel resto del mondo. Dopodiché, per chiamarlo prosciutto di San Daniele, sempre che abbia le caratteristiche che poi vengono controllate da un ente a noi esterno, ci vogliono almeno 13 mesi prima che venga posto a fuoco il marchio del consorzio. Quindi ci vuole un lungo tempo, e ovviamente il prezzo giustifica questo, il prezzo finale? Ma secondo noi è un prodotto che è estremamente economico. Se andiamo a vedere che con 2,30€, 2,50€, 2,70€ uno compra un netto di un prodotto così naturale, così gustoso, insomma basta girare per il supermercato e vedere che non sono poi tanti prodotti che con quella cifra ti possono garantire salubrità, gusto e insomma. Ecco, diciamo che il prosciutto appunto può essere tagliato, abbiamo sentito, in tante maniere, e sicuramente come ognuno vuole. Io invece ti chiedo qual è la stagionatura considerata migliore. Immagino che dipenda anche dal peso del maiale, ma c'è una stagionatura X che è quella ritenuta ottimale? Ma diciamo che se mettiamo insieme anche tutti e 31 i produttori, probabilmente avremo 31 opinioni diverse. C'è qualcuno estremo di noi che arriva anche a qualche anno di stagionatura. Io personalmente a casa mia, quando metto un prosciutto sulla affettatrice, amo un prosciutto di una pezzatura abbastanza pesante, quindi con una buona grassinatura interna, che sia stagionato intorno ai 16, 17, 18 mesi. Bene, grazie a Vladimir Dukcevic. Io voglio ricordare, perché sono contento che mi arrivano continuamente segnalazioni di prodotti, la gente non interviene al telefono per parlarne, ma me li manda appunto. Allora, il formaggio salato della signora Rosa Dorigo, che magari se in ascolto la saluta, perché oltre al formaggio fa anche un ottimo vino, e poi il formaggio unico, lo Yamar, stagionato nelle grotte del Carso da Dario Zidaris, davvero straordinario questo formaggio, non ha niente da invidiare i grandissimi formaggi. Zidaric, oltre a questo formaggio, ne produce uno migliore dell'altro, appunto molto ma molto interessanti quelli stagionati nelle grotte. Continuano ad arrivare sicuramente dei segnalazioni di grandi prodotti, ad esempio si parla dello speck di Sauri, sì, poi direi anche lo speck e il guanciale e il prosciutto di Cormons e di Osvaldo, vale la pena di segnalare perché è un prodotto davvero molto, molto interessante. Ma diciamo che continua anche questa lotta, se si taglia a coltello oppure se si taglia a macchina. Ebbene, un radioascoltatore dice che vorrebbe intervenire, io aspetto appunto che ci spiega qual è il modo migliore, questo Sandro da Firenze. Ma ora diciamo arriviamo nelle colline del Colio, anche perché non si può mangiare prosciutto, non si può mangiare trota affumicata, non si può mangiare speck senza bere un bicchiere di un grande vino. E allora abbiamo con noi Fabian Music, della cantina Music di San Floriano del Colio. Buongiorno Music. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, cosa c'è di particolare? Voi fate diversi vini nel Colio, c'è un consorzio molto attivo che mi sembra quest'anno compia ben 50 anni, ma qual è la forza del Colio per il vino? Sono, diciamo, la terra, il territorio, sono i vigneti, sono i vitigni, cos'è? Cos'è che funziona meglio di tutto? Beh, il Coglio è una zona importantissima per la produzione di vini bianchi. Io credo che sia probabilmente in Italia una delle zone veramente, o forse la zona più importante per la produzione di vini bianchi secchi e fermi. Sicuramente il connubio del clima, della zona, dei terreni, e poi c'è una grandissima tradizione, c'è una grandissima esperienza proprio per quanto riguarda la viticoltura e l'enologia in tutta la zona, ecco. Quindi una grande tradizione, insomma, i 50 anni lo confermano, è così. Anche di lato tanti riconoscimenti, alla fine poi scopriremo un riconoscimento che è avvenuto a un produttore del Colio addirittura a livello mondiale. Rimanga con noi, perché ora sentiamo un radioascoltatore, Vittorio da Latina. Buongiorno Vittorio. Buongiorno. Prego. Sì, volevo domandare come mai quando si mangia, quando mangio la fettina di prosciutto di San Daniele o di Parma, il grasso c'ha il sapore amarognolo, invece negli altri prosciutti ci sa il sapore del sale, insomma più saporito. Cosa Quali altri prosciutti? Altri prosciutti? Sì, quelli fatti diciamo artigianalmente? Artigianalmente o di altre marche. E di altre marche il sapore è di sale normale, invece questo di San Daniele e di Parma la fettina è buonissima, la carne, invece quel grasso che c'è attorno c'è il sapore di amarognolo, amaro. Ma io lo ritengo molto strano questo, a meno che non sia leggermente ossidato, che si tiene fuori, però se lei fa questa differenza anche con prodotti artigianali, insomma. Però guardi, abbiamo con noi un ristoratore, ma poi parleremo anche di aceto con questo ristoratore molto importante di Cormons, di un locale che si chiama Al Cacciatore della Subida, Josco Sir. Buongiorno Josco. Buongiorno a tutti voi. Senta, lei ha mai sentito l'amarognolo attorno al prosciutto di San Daniele sul grasso? No, anzi, il San Daniele si distingue per la sua morbidezza e per la sua dolcezza. Probabilmente questo radioascoltatore ha avuto delle esperienze non positive, forse per il modo con il quale è stato trattato quel prosciutto che gli è arrivato in mano, ovvero in bocca, ma il San Daniele si distingue proprio per la sua morbidezza e per la sua dolcezza. Ma io lancio anche una lancia a favore di Parma, perché non credo che quello di Parma sia amarognolo. A me non è mai capitato in tanti anni, io sono un divoratore di prosciutto, sia di tutti i prosciutti, non solo San Daniele e Parma. Comunque, come si dice, de gustibus non est disputando. Alessandro da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Prego. Scusi, levo. Ecco, allora, volevo spiegare questa cosa qui del taglio a coltello a macchina. Oh, c'è una bella differenza fra le due cose, mi sente? Perché sì, sono prego, ritorno. Prego, prego. Dunque, allora, il taglio a macchina inevitabilmente va a scaldare i grassi, quindi altera il sapore. Qui non ci piove. Anche il taglio a volano, con la macchina a volano, anche se va molto più lentamente, però il difetto non cambia. Taglio a coltello, viceversa, primo non scalda i grassi e poi ha la caratteristica di non fare lo stesso spessore, quindi alterna il sapore, tirando fuori veramente tutti i sapori del prodotto. Il problema vero è trovare un buon arrosino che fa un'ottima affilatura, e anche questo non basta, perché poi è necessaria una dovuta manutenzione. Parla uno che è ghiottissimo di prosciutto e quindi ha imparato da un buon arrosino a mantenere il taglio e a gustare in pieno i sapori di un buon prosciutto. Senta Alessandro, io aggiungo però che bisogna essere anche molto abili a tagliare, perché sennò si rovina un prosciutto. Oggi sempre meno si trovano anche nei negozi, nelle salumerie, o chissà tagliare a coltello, quindi io credo che forse per molti meglio ricorrere alla macchina a volano, giustamente, sono d'accordo con lei, piuttosto che l'altra, ma perché sennò veramente vedo gente molto in difficoltà anche in negozi importanti tagliare il prosciutto a mano. Comunque, bene, se lei è capace, sì, sono d'accordo sulla rotina, ma soprattutto è la mano quello che conta. Ma torniamo a Josco Sirk, perché Josco Sirk è un grande ristoratore di una cucina, chiamiamola di confine. Josco, sei d'accordo sulla definizione di confine? Sì, lo siamo fisicamente, lo siamo per nascita e vorremmo esserlo anche in cucina, proprio fondendo le varie culture e fondendole in un qualcosa di buono, in un qualcosa di gustoso. Ecco, ci dai mi dai qualche indicazione di qualche piatto appunto che appunto rientra su questa definizione di, diciamo, ricetta di confine? Ma le ricette di confine qui sono le ricette che hanno fuso la cultura mediterranea, che qui influisce, cioè che qui finisce anche come influenza, e la cultura germanica, ovvero slava, che invece ci viene dal nord. E quindi è tutta quella parte delle paste lievitate, la parte dei gnocchi, qui i maccheroni sono arrivati pochi anni fa, e quella parte del giocare molto con il dolce e il salato. E poi noi abbiamo qui una serie di gusti che sono diversi, il kren, il pechtran, che è una specie di dragoncello, ci sono la frittata che facciamo con erbe completamente diverse da quelle che si usa poi in Veneto, quindi c'è una diversità che viene anche dal nostro territorio, perché qui il clima e lo stile di vita mediterraneo si incontrano con il centro Europa, con la grande pianura danubiana. Bene, rimani con noi, torno a Music, voglio chiedere a Music appunto i vini, si parla sempre di bianchi del Coglio, ma ci sono anche i rossi. Sicuramente abbiamo anche dei rossi, però rappresentano delle produzioni veramente limitate, ecco. Quello che contraddistingue il Coglio, come abbiamo detto prima, sono sicuramente i vini bianchi, le uve bianche, le viti a bacca bianca, che sono le varietà nostre famose, la Ribolla Gialla, il Tokaj Friulano, la Malvasia, sono questi insomma i nostri cavalli di battaglia. Bene, e Marco Visentini, abbiamo con noi un pasticcere che è importante perché in questa, diciamo, tra le colline del Coglio, ed è una specialità friulana, che allarghiamoci anche, c'è un prodotto che si chiama Gubana. Marco Visentini, che differenza c'è tra la Gubana e la putizza? Allora, Davide, intanto buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Diciamo che sono strettamente imparentati, però sono due dolci completamente diversi. La gubana goriziana è un dolce fatto in pasta sfoglia con all'interno un impasto che ricomprende frutta secca macinata, zucchero, burro, cubetti di arancio e cedro canditi, miele, pinoli e chi ne ha più ne metta, diciamo. Poi c'è l'uvetta sultanina, logicamente, che deve essere preventivamente messa a bagno. Quindi la gubana è un dolce con pasta sfoglia e all'interno un rotolo di questo impasto. La putizza è strettamente, come l'ho detto, imparentata, ma non è fatta in pasta sfoglia, bensì in pasta lievitata, e il ripieno, che è leggermente diverso da quello della gubana, si presenta come un rotolo, quindi la pasta e il ripieno vengono arrotolati e quindi in sezione il dolce è completamente diverso rispetto alla gubana. Ecco, Visentino, sono due dolci natalizi o da tutto l'anno? Allora, guardi, le posso dire che per tradizione la gubana nasce come dolce pasquale e la putizza nasce come dolce natalizio. Oggi come oggi sono dolci tipici che si consumano durante l'arco dell'anno e per la loro caratteristica, diciamo, sono più dolci invernali che dolci estivi, perché sono dolci piuttosto sostanziosi, quindi sono dolci che si consumano più volentieri in inverno che in estate. La notizia che sto per dare è veramente straordinaria per il vino italiano. Per la prima volta un vino italiano conquista la Francia ed è stato giudicato a Bordeaux il Sauvignon migliore del mondo. Questo ha dell'incredibile, perché conoscendo i nostri cugini d'Oltralpe come sono sciovinisti, devo dire che questo vino io non l'ho assaggiato, ma deve essere veramente straordinario. Buongiorno a Roberto Snidarcic. Buongiorno. La sua azienda si chiama Tiare, è ad Olegna del Coglio. Senta, ma come ha fatto a convincere i francesi a darle questo premio? Io ho mandato dei campioni di Sauvignon al consorzio Coglio Orientale del Friuli, che si è occupato di fare un gruppaggio, una raccolta di campioni di Sauvignon di varie aziende e poi li hanno spediti su al concorso mondiale a Bordeaux. E niente, c'erano 60 giudici, tra cui tecnici di tutto il mondo, che hanno assaggiato tutti questi campioni e poi alla fine è uscito il Sauvignon di Tiare quale Sauvignon migliore al mondo. È stata veramente una bella sorpresa. Di che annata? Del 2013, quindi sicuramente ora avrà esaurito tutta la produzione, immagino. Lo stiamo centellinando per accontentare un po', diciamo, un po' tutti, cerchiamo di accontentare tutti. Bene, rimanga con noi, io voglio tornare a Josko Sir, che è della Subida, appunto, di Cormons, perché nel Collio anche il vino diventa aceto, vero Josko? Se si è bravi, ma non è quello a cui ambisco. Io ambisco qui in una zona di eccellente produzione, qual è il Collio, di vini soprattutto bianchi, ambisco di produrre un eccellente aceto di vino che sempre nella storia è stato molto apprezzato e che adesso è un pochettino un prodotto in ombra. Ecco, ma aceto da quali vitigni? Da vitigno autoctono, questo la regione Friuli Venezia Giulia ha fatto un bellissimo lavoro e ha inserito questo prodotto nell'elenco dei prodotti tipici nazionali, dandogli dei giusti palletti, cioè che venga fatto da vitigno autoctono, da uve di collina e a fermentazione naturale. Beh, speriamo veramente che l'aceto di vino torni ad essere, diciamo, un prodotto di qualità, perché per anni, insomma, era stato un po' così, la qualità che si assaggiava in giro era veramente molto molto molto mediocre. Ma rimaniamo ancora nel Collio e andiamo da Giovanni Blanc, che è titolare del ristorante Blanc a Mossa, provincia sempre di Gorizia. Buongiorno Blanc. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta, ci parla di due piatti tipici appunto del Collio, che la sua è una trattoria tradizionale, quindi quali sono, diciamo, i piatti che la caratterizzano? La trattoria è conosciuta un po' per la nostra pasta che la facciamo in casa, adesso ci sono i funghi per esempio, che lavoriamo moltissimo con i funghi, fino a pochi giorni fa c'erano gli asparagi bianchi che è una chicca un po' qua della zona, durante l'inverno c'è la rosa di Gorizia che è un fiore all'occhiello, diciamo, come verdura anche. Ecco, la rosa di Gorizia, diciamo che è molto simile ai prodotti in provincia di Treviso, diciamo quello di Castelfranco, e il radicchio di Castelfranco è il radicchio di Treviso. Diciamo che è una cosina un po' più particolareggiata, è una fatta un po' in forma artigianale, perciò non è molto conosciuta in forma nazionale. Però chi la assaggia è una cosa completamente differente. Beh, devo dire che ho un SMS davvero molto divertente, che sì. Dice veramente una bomba quel Sauvignon, degustato domenica scorsa, grazie, ogni tanto ci meritiamo un po' di visibilità come friulani. E poi dice Friuli Pride, insomma, devo dire che sicuramente i prodotti, come abbiamo sentito anche da tanti radioascoltatori attraverso gli SMS, sono veramente tanti. Ma voglio tornare a Giovanni Blanc. Senta, di prodotti veri e propri del territorio del Collio che rientrano nella sua cucina, oltre appunto alla rosa di Gorizia, quali altri? Le selvaggine, che è un approvvigionamento un po' particolare qua, caprioli, lepri, fagiani, il cinghiale che è proprio radicato qua tantissimo. Sì. Quindi cucina di cacciagione, lei come la cucina? Beh, la cucina, in salmini, sì. Le varie cose, poi arrosti vari di piuma, le beccacce in forme particolari così anche. Voglio tornare da colui che ha sconfitto i francesi, appunto voglio tornare da Snidergic. Volevo chiederle, Roberto, oltre la Sauvignon, quali altri vini lei produce? Noi come azienda produciamo ad esempio la Malvasia, il Friulano e la Ribolla Gialla. Ma è sempre stato il Sauvignon il suo prodotto di punta oppure il 2013 è stata una grande annata? È un vitigno che mi ha sempre appassionato sin da ragazzino. E niente, diciamo che poi dopo 30 anni di impegno su questo progetto è arrivato questo riconoscimento molto importante. Bene, Josco, volevo con te fare così una digressione sui molti vini che appunto ne abbiamo parlato già sabato, non vorrei tanto tornare sull'argomento, però il coglio è molto ricco di coloro che producono appunto vini con la macerazione sulle bucce e hanno grande successo in questo momento questi vini. Ma l'interessante di questa produzione è il segnale filosofico che vogliono dare questi produttori. C'è una presa di coscienza che forse con la viticoltura e con l'enologia siamo andati un tantino troppo avanti, forse la tecnica e le procedure sono troppo omogenizzate e forse è il caso di tornare un po' alla terra, o meglio all'uomo, che il vino sia espressione di una terra ma anche dell'uomo che lo fa. Io vedo questo il messaggio principale che viene da questo tipo di produzione. Quindi tu dici più autenticità? Esatto. Beh, quindi sarebbe molto interessante, specialmente in terre che si sono sempre espresse in questa maniera, ma devo dire che oggi attraverso gli SMS non si può dire una parola che immediatamente tac, arriva la discussione. Peccato che non sia telefonica di molti di questi. Ho citato il radicchio di Treviso di Castelfranco così, non tanto per metterlo a confronto, ma per dire può ricordare il radicchio di Gorizia, la rosa di Gorizia. Immediatamente un radioascoltatore sicuramente o di Treviso o di Castelfranco mi scrive: tra il radicchio di Treviso e di Castelfranco c'è un abisso. Bene, sì, sicuramente sono molto, molto diversi. Blanco, un'ultimissima cosa: c'è un dessert particolare tradizionale della sua terra? Beh, diciamo i vari cugulu, gubane, presnitz che facciamo in qua nel Goriziano, diciamo questi sono proprio i tipici, radicati nel tempo. Poi i vari dolci ci si uniforma un po' al desiderio un po' del cliente. Come ha detto Gugulum? Com'è? Il Gugulum. Cos'è? Sì, è un fatto con le noci, pinoli, uvetta passa, viene fatto, è tipo un dolce che viene messo nel forno e poi viene servito. È una cosa familiare anche un po' così, non tanto da servire verso il cliente. Bene, si fa a casa insomma. Bene, allora io ringrazio Giovanni Blanc del ristorante Blanc di Mossa in provincia di Gorizia, Josco Sirk della anche lui di Cormons della Subida e Roberto Snidergic per aver prodotto questo straordinario Savignon 2013. Azienda agricola Tiare che ha battuto i francesi a livello mondiale non a poco. Speriamo di farlo anche noi se li incontreremo appunto ai campionati mondiali di calcio. Io ringrazio in redazione Anita Panizza, Nicolò Rossoni e in regia Filippo Aureggi che per tutta la trasmissione faceva così delle smorfie perché è un buon gustaio. Bene, grazie a tutti, alla prossima settimana.